dammi retta. Ma chiedi a me che so, perché a forza di sentirlo. Dunque c'è la R che diventa V e c'è la R così. Quindi anche oggi parto con tre domande. Con quante esattamente? Non ho capito. Tre. E soprattutto il suo metodo e la sua parola d'ordine è gradualità. Giriamo tutto l'anno. Infatti è tipico del bambino con la raffreddore, certo, con l'adenoidi, quando deve dire, non so, la mamma va dalla nonna, dice la babba va dalla dodda. Insomma, qua questa puntata oggi c'è proprio letteralmente volata. Con noi il tempo vola. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai quando ci sono le lezioni. Forse perché si vota quasi sempre a maggio, quindi in piena primavera. Nicoletta, ricordiamoci che dobbiamo andare a votare domenica. Assolutamente, ci sono le elezioni. E tra l'altro, Deborah, c'è l'assoluto silenzio stampa sull'argomento. Sì. Noi non possiamo parlare di nessun politico, di nessun sondaggio, niente. Devo dirti che io però sono contenta, ci perché credo. Questa campagna elettorale mi è sembrata molto nervosetta. Sì, forse più nervosa del solito. Devo dire che le tue sensazioni sono giuste, secondo me. Se ne sono accorti anche i mercati, perché sono stati proprio ballerini questa settimana, soprattutto Piazza Affari, spread compreso, che mercoledì ha ben pensato di fiondarsi a quota 200. Forse questa è una cifra che non dice niente a nessuno, ma siccome il livello era molto più basso, in realtà in molti si sono preoccupati. Siamo arrivati ai massimi da due mesi, il rendimento del titolo decennale è arrivato al 3,35%. Hai ragione, Deborah, noi pensiamo sempre ai mercati come se si trattasse di qualcosa molto distante da noi, però io, facendo cuore denari, ho capito, mi hai convinto tu, che il mercato è fatto da scelte, da decisioni prese da uomini, da tutti noi, per cui il nervosismo di cui parliamo, il nervosismo dei mercati è reale, non è proprio un concetto così astratto. E infatti, ecco perché secondo noi quando i mercati si muovono vale la pena commentarli un po' e cercare di capirne le dinamiche e le motivazioni che si celano dietro a questi movimenti, visto che poi si riflettono direttamente sulle nostre tasche. Anche se il nostro risparmio non è elevatissimo, è giusto considerare questi movimenti appunto perché appunto, anche se è piccolo, viene movimentato. Per questo noi oggi apriamo cuore e denari ad un commento sulle tendenze dei mercati alla fine di una settimana dove la volatilità è stata assolutamente accentuata. Cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime settimane? Chissà che succederà, Nicoletta, lunedì dopo il voto. Vorrei proprio saperlo, mi piacerebbe vederlo da una boccia di cristallo. Magari, però sai che ti dico, la facciamo aprire adesso al nostro ospite, Marco Vicinanza, responsabile della direzione investimenti di Arca SGR. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno agli ascoltatori. In una battuta, il voto si sentirà in borsa lunedì, secondo lei? Oppure abbiamo già digerito e visto tutto quello che si doveva vedere questa settimana? Ma alcuni mercati hanno già registrato un po' di fibrillazione. Il caso più concreto è quello del mercato azionario italiano, che ha già perso dai massimi intorno all'8%. È stato citato il movimento dello spread. Altri mercati non hanno ancora risentito. La mia sensazione è che, salvo eventi improbabili, quindi una vittoria schiacciante delle forze antieuropee, il mercato digerirà, non credo che ci saranno effetti persistenti sulle quotazioni. 800 24 00 24. Prendete in mano la cornetta e intanto raccontateci se investite o non investite. Nel primo caso, state valutando di fare un piccolo check-up del vostro portafoglio in vista delle vacanze estive, una volta passata un po' la preoccupazione o meno per l'esito elettorale. Chiamateci anche però nel secondo caso, perché anche se non investiamo, siamo forse più interessati del passato alle dinamiche di azioni e obbligazioni, perché abbiamo compreso molto bene come anche uno starnuto dello spread. Mi piace questo starnuto, è uno starnuto allergico. Infatti manda in crisi a volte parecchie persone e non solo. Allora, visto che si vota domenica, vi chiediamo se in questa brusca campagna elettorale avete provato a capirci qualcosa di più sui temi economici e finanziari in un'ottica europea. Ce n'è uno su cui vorreste un chiarimento, di cui i candidati magari hanno parlato ma senza essere stati troppo chiari? Allora, avviciniamoci un po' a questi mercati e possiamo farlo chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24, ma naturalmente come sempre vi invitiamo a mandarci un tweet, a seguirci su Facebook, a mandarci un SMS, insomma vi facciamo fare un sacco di cose. Possono cercare il canale che preferiscono. Continuo a dimagrire e di notte comincio a sudare. Decido di andare in un centro di medicina cinese. Mi visitano due medici, Zhu Hu e Yang. Mi sentono il polso. Poi a un certo punto si scambiano il posto. Ehi, fatto male? Un po'. Questa è ultimi due, eh? Sì. Il dottor Yang mi lascia solo nella stanza. Mi lascia solo per un quarto d'ora, 20 minuti, e io mi addormento anche un po'. Allora, 800 24 00 24, per fare il punto sui mercati, ma noi, come anticipato, nella seconda parte della trasmissione insieme a Deborah parleremo di punti, quelli stimolati dagli aghi. Lo spunto, a proposito, ce l'offre la decisione dell'Emilia Romagna, che ha inserito l'agopuntura tra le prestazioni coperte dal servizio sanitario pubblico e ha inoltre istituito un osservatorio per monitorarne le attività. Non è un caso isolato, perché le medicine non convenzionali, che in alcune regioni vengono chiamate complementari, di cui fanno parte oltre all'agopuntura anche l'omeopatia, la fitoterapia, lo shiatsu, hanno varcato le porte degli ospedali di molte regioni italiane, suscitando consensi o polemiche naturalmente. Noi oggi però ci limiteremo a capire quali sono gli utilizzi degli aghi e quali di questi sono sostenuti da evidenze scientifiche. Quindi vi aspettiamo per raccontarci cosa succede nella vostra regione e per dirci se avete utilizzato l'agopuntura, da chi vi è stata consigliata, per quali motivi e soprattutto quali risultati avete ottenuto. Per questo io dicevo in apertura è tutta questione di punti. 800 24 00 24. Guarda, io prendo la palla al balzo e visto che abbiamo parlato di agopuntura, che naturalmente è una tradizione cinese molto consolidata, volevo fare una domanda a Marco Vicinanza, anche se noi volevamo parlare di elezioni europee, impatto sui mercati, ma una piccola, come dire, osservazione sulla Cina forse vale la pena di farla, perché abbiamo visto come questo paese, rallentando nella sua crescita, e cresce tuttavia intorno sempre al 7-8%, quindi magari qua da noi potessimo vedere queste prestazioni, e avendo fatto una scelta molto chiara, quella di crescere di più sul mercato domestico piuttosto che per esportazioni, ha un po' condizionato in questo ultimo anno anche l'andamento di tutte le altre borse internazionali. Beh, certamente l'economia cinese rappresenta, diciamo, un colosso dal punto di vista delle dimensioni, sia rispetto all'area, ma ormai anche a livello mondiale. E come ha detto lei, il tema è duplice. Abbiamo un rallentamento congiunturale, sempre da livelli molto elevati a livelli un po' meno elevati. Si cresceva tra il 10 e l'11%, adesso siamo intorno al 7-8. Siamo intorno al 7-8, quindi siamo sempre su livelli molto elevati, però in rallentamento. E c'è un tema più strutturale di lungo periodo, dove la Cina sta cercando di cambiare modello di sviluppo, da un modello di sviluppo orientato alle esportazioni a un modello di sviluppo orientato sulla crescita domestica. È una sfida importante, non facile. La storia ci dice che questi passaggi spesso e volentieri sono traumatici, ma è una sfida che condizionerà molto l'andamento economico dei prossimi anni, non solo nell'area ma a livello mondiale. Infatti, secondo lei però, per chi magari diversifica molto bene, un termine che piace molto a Nicoletta, il proprio portafoglio di investimenti, vale sempre la pena conservare una porzioncina investita in questo paese, perché comunque i tassi di crescita sono in ogni caso sempre interessanti? Io direi che in generale il mondo dei mercati emergenti ha vissuto una fase non particolarmente brillante, sto parlando dell'andamento dei mercati finanziari, i mercati borsistici in particolare. I fondamentali a lungo periodo rimangono attraenti, quindi credo che possa essere una buona soluzione quella di diversificare in questo momento verso quei paesi. Secondo lei i cinesi guarderanno il risultato elettorale europeo? Magari quelli che abitano qua, sì, forse un po' più di quelli che abitano là. Ripeto, io dubito che questo sia un elemento, un grosso catalizzatore di movimenti di mercati, a netto di sorprese clamorose. Allora, 800 24 00 24 per le vostre considerazioni sul tema mercati finanziari, dove stiamo andando, cosa è successo in questa prima parte dell'anno, dove andremo e soprattutto conviene fare in questo momento, in vista dell'estate, per andare in vacanza sereni, un piccolo check-up del portafoglio. C'è molta preoccupazione per questa fronda anti-euro che si è fatta molto sentire in questa campagna elettorale. Secondo lei, se Marco Vicinanza, questa fronda anti-europeista avesse risultasse da questa competizione elettorale molto vivace, diciamo, in termini percentuali, venisse fuori una, non dico una posizione schiacciante, ma insomma più del previsto, lo spread andrà alle stelle lunedì? Mi sono un po' incartata, ma credo che lei mi abbia capito. La domanda è chiarissima e ci riporta alla fine alla nostra situazione domestica. Io direi che lo spread potrebbe subire, diciamo, un impatto negativo significativo solo qualora il risultato riportato sulle nostre vicende domestiche fosse tale da mettere in difficoltà il governo in carica. Mm-hmm. Nelle altre situazioni credo che comunque gli analisti abbiano già fattorizzato il fatto che da queste elezioni emergerà con più forza una fronda antieuropea e i prezzi in questo momento in qualche modo lo riflettano. Secondo lei ci sono attese diverse se guardiamo al mercato azionario e a quello obbligazionario dall'esito elettorale? O possono farsi le considerazioni generali? No, credo di fronte a un risultato che generi turbolenza i due mercati si muoverebbero nella stessa direzione, quindi spread più largo in caso di negativo, diciamo in un evento negativo, spread più largo e mercato giù. Senta, in molti dicono che i cali di borsa che ci sono stati soprattutto a Piazza Affari in questa settimana, che poi ieri per esempio è stata condizionata anche da alcune vicende giudiziarie che sono venute clamorosamente alla luce, poi magari ne parleremo, ecco, in molti sostengono però che i cali di questa settimana siano da ricondurre al fatto che in particolare Milano da inizio anno aveva decisamente un buon andamento, quindi la scusa delle elezioni è stata subito presa per incassare i guadagni realizzati da gennaio. È questa interpretazione plausibile secondo voi? C'è una buona porzione di verità. Ricordiamo che il mercato italiano dall'inizio dell'anno agli inizi di aprile ha avuto una performance positiva intorno al 17%, sì. Che insomma è un dato significativo, peraltro molto al di sopra di quello che hanno fatto gli altri mercati, diciamo i mercati più forti, più solidi dell'area euro. Quindi il fatto che sia stata una presa di beneficio è coerente ed è anche giustificabile. Volevo solo segnalare ai nostri ascoltatori, Nicoletta, se mi permetti un attimo, perché vedo che si stanno mettendo in coda amici che ci seguono da casa che vorrebbero fare domande su singoli titoli e singole azioni e noi non possiamo dare appunto commenti specifici in questa maniera, per cui ci manterremo su un quadro settoriale e più generico, poi vediamo quanto Marco Vicinanza vorrà sbilanciarsi. Allora andrei nella provincia di Pordenone. Volentieri. Perché ci aspetta Marianna, che ci invita a fare una, perché lei conosce una Marianna nella provincia di Pordenone? Perché? Non mi sembra. No, perché ho visto che ha fatto. Aveva annuito? Aveva. Marianna, buongiorno. Sì, buongiorno signora. Perché Marianna ci porta a fare una riflessione a voce alta su un aspetto che è già ripreso da molti sms che stanno arrivando al nostro numero. Marianna, buongiorno. Non voglio rubarle il piacere di raccontare la sua considerazione. Sì, niente, sento parecchi, in questi giorni parecchi commenti sulle aspettative di queste votazioni europee e anche amministrative. Sì. Cioè, la mia domanda è: perché l'economia viene influenzata dalla politica? Perché se una società, un'azienda Cioè le decisioni che fa l'azienda sono personali, sono individuali, perché deve dipendere dalla politica? Certo. Poi un'altra cosa, un giorno sento parlare di inflazione, il giorno dopo di deflazione. Questa mattina ho sentito l'intervista con l'ex ministro Tremonti che parlava addirittura di svalutazione, che aggrediranno i risparmi delle persone. Allora, qual è la verità? Allora, intanto diciamo che secondo me li hanno già aggrediti abbastanza con la tassazione sulle rendite finanziarie che tra l'altro adesso sarà maggiorata a partire da luglio, le mini patrimonialine degli ultimi 2 anni che sono sfuggite a molti. Andiamo però per ordine. Cosa c'entra la politica con l'economia, Marco Vicinanza? La domanda delle domande. È chiaro che magari, che ne so, un governo di un certo colore non interessa l'andamento di una società che non è quotata, ma su quelle quotate invece un peso ce l'ha. E poi ecco, è un governo che fa le riforme o che gestisce la politica economica di un paese. Prendendola con un'ottica domestica, farei proprio una riflessione di questo tipo. Lei, signora Marianna, immagini quanto è rilevante che il governo in carica intraprenda finalmente quelle riforme economiche che permettano all'Italia un percorso di crescita più elevata e sostenibile dalla situazione attuale. Se l'economia cresce, tutte le imprese beneficiano i consumatori, beneficiano i singoli cittadini. È evidente che l'impatto per un'azienda di una società più florida dal punto di vista economico è immediato e rilevante. Mm-hmm. Quanto alla seconda domanda, anche questa ben posta. Inflazione e deflazione. Sì, perché posso capire che il tema generi confusione nel grande pubblico, perché siamo sempre stati abituati all'idea che l'inflazione sia il male, adesso sentiamo dire che c'è un problema perché non c'è inflazione. La verità è che un pizzico di inflazione è salubre in un'economia. Diciamo, un'economia che cresce con un paio di punti percentuali di inflazione è un'economia sana. Che peraltro è anche l'obiettivo della Banca Centrale Europea per mantenere una politica monetaria stabile. Non un a po' caso. Come lo stress buono, no? Mm. Un po' di stress, cioè, aiuta. Non a caso. Pensate soltanto che è sano che i prezzi tendano a salire un pochino, semplicemente perché la qualità degli stessi nel tempo migliora. Mm-hmm. Quindi un televisore oggi non è lo stesso televisore che compravamo anni fa. È comunque indice di consumi che circolano e non solo. Certo, quando l'inflazione è troppo elevata, questo diventa un elemento negativo, perché l'inflazione elevata brucia il potere d'acquisto del risparmio. Ugualmente negativo è un dato di inflazione troppo basso, o addirittura un dato di inflazione col segno meno davanti, perché di fatto se il livello dei prezzi tende a scendere nel tempo, il primo effetto che si verifica è un effetto psicologico sul consumatore. Non consumo oggi perché domani quel bene costerà di meno, quindi aspetto a consumare e oggi risparmio. Mm-hmm. Questo genera il rischio di una crisi economica per carenza di consumo. E se qualcuno volesse concretizzare quello che succede, basta ristudiarsi un po' la storia giapponese degli ultimi anni e avrebbe chiaro il quadro della situazione. 800 24 00 24, sì Giuseppe, dobbiamo prenderlo. Dai. Giuseppe da Lecce, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci dica un po', adesso Vicinanza ci picchia perché abbiamo preso questa domanda, ma avremo modo di divertirci lo stesso. Giuseppe. Niente, la mia domanda era relativa alle squadre di calcio quotate in borsa. Diciamo, nel giro di una decina d'anni mi sono potuto rendere conto come siano differenti a livello di andamento. Lazio, Roma e staccata la Juventus. Volevo sapere anche in campionato era. Giuseppe, le cose sono molto chiare. Sì. Lo so, però visto che la Juventus è reduce da diverse vittorie in campionato, però non c'è un corrispettivo in borsa in questo. C'è stato un aumento di capitale, quindi sono stato costretto a comprarne altre per abbassare la... Sai che neanche me lo ricordavo che c'è stato l'aumento. Comunque Giuseppe, guardi, noi adesso io l'ho lasciata un po' parlare, non possiamo rispondere sui titoli di calcio, vale però la pena fare un po' una serie di considerazioni su titoli molto sottili come possono essere questi appunto matrice sportiva. Marco Vicinanza, che ne pensa? Sì, voi mi volete veramente... Lui ha ben diversificato il portafoglio perché se le comprate tutte e tre. Sì, d'accordo. Quindi, quindi non si comprano solamente le azioni della squadra del cuore. Ecco, perché io, che sono del Toro, già non potrei prenderle. No, perché mi pare che non è quotato. Però, tra l'altro, non dirlo così con quella faccia, come per dire che. Sai che io sono juventina, figuriamoci. Pensi, anche con una gobba mi tocca lavorare. Mamma mia, io che sono un cuore granata. Sentiamo i mercati. Sì, allora facciamo riflettere. Facciamo un attimo riflettere, sì. Marco Vicenzo. Proviamo a dare un taglio puramente finanziario e non legato alle passioni. Ovviamente le società quotate sono, come tutte le altre società, valutate sulla base dell'attesa degli utili, quindi dei ricavi e quant'altro. Quindi la prima osservazione è che, indipendentemente dai risultati, quello che conta è la capacità di una società di generare ricavi e di tenere sotto controllo i costi. Apro una parentesi: non è facile per le società di calcio tenere sotto controllo i costi con perché, quello che spendono per comprare i calciatori. Esattamente. Quando le cose vanno bene aumentano i ricavi, ma molto facilmente, rapidamente aumentano i costi, perché i calciatori chiedono integrazioni o revisione delle condizioni contrattuali. L'osservazione che faceva Deborah è l'altra osservazione fondamentale: si tratta di titoli a bassa capitalizzazione, molto poco liquidi, con andamenti molto erratici, volatili, in funzione anche della pressione che arriva da un numero limitato di scambi. Cuore e denari. Ma l'agopuntura non doveva farmi sentire meglio? Fidati, è così. Ma non è facile trovare il punto esatto dei nervi sotto tutta questa... ciccia? Pelliccia. Stavo per dire pelliccia. Abbiamo ripreso la seconda parte di Cuore Denari con questo breve estratto di Kung Fu Panda per ricordarvi l'appuntamento nella seconda parte con gli aghi, con l'agopuntura, quali utilizzi hanno il consenso della scienza e soprattutto quando è addirittura preferibile la medicina ufficiale. Ci aiuterà la dottoressa Monzani dell'Humanitas, dove tra l'altro un ambulatorio di agopuntura è già presente da anni. 800 24 0024. E noi torniamo a parlare di mercati finanziari con Marco Vicinanza, responsabile della direzione investimenti di Arca SGR. Vicinanza, se un risparmiatore risparmia attraverso un fondo di investimento, magari non deve interessarsi più di tanto allo stato di salute delle società che sono inserite all'interno di questo fondo, perché ci pensa un investitore professionale, un gestore. Ma qualora si volesse invece fare un investimento individualmente diretto delle società quotate, dobbiamo guardare all'andamento dei bilanci. Siamo nel pieno della stagione delle trimestrali. Quale stato di salute sta emergendo da parte appunto delle aziende italiane? Il risultato delle trimestrali credo sia particolarmente interessante, e lo dico perché siamo stati bombardati nelle ultime settimane da una nuova ondata di pessimismo che è stata generata dal dato negativo di crescita del PIL italiano nel primo trimestre. Questo è stato ripreso, insomma, e commentato negativamente. Meno 0,1%, insomma, questo segno certamente negativo non ce lo aspettavamo. Non ce lo aspettavamo, è una sorpresa ed è stato appunto commentato da molti come l'evidenza che tutto quello che si diceva erano soltanto flebili e vaghe speranze. Il primo elemento che sottolineerei è che quel dato lì potrebbe in realtà essere stato distorto da alcuni fenomeni particolari, per esempio il fatto che il primo trimestre è stato caratterizzato da un inverno molto mite, i consumi energetici sono stati modesti, quindi potrebbe venire fuori che in realtà il dato negativo riflette soltanto questo elemento. E questo, diciamo, non ce l'ha detto nessuno perché non l'abbiamo letto da questa lettura. È un'ipotesi che facciamo, diciamo, che facciamo da verificare quando, certo, poi verrà data la spaccatura. Però al di là di questo, le trimestrali ci raccontano ci danno un quadro che non è poi così negativo. Abbiamo visto per esempio banche che riportano risultati positivi in miglioramento anche grazie al fatto che l'erogazione di mutui è ripreso. Questo è un segnale molto positivo. Più 20% nel primo trimestre. Abbiamo anche parlato. Esatto. E quindi tutti sappiamo quanto diciamo è stato difficile ottenere un mutuo negli anni passati. Altri elementi che posso citare: nel settore dei trasporti si evidenzia un aumento significativo del traffico. Ora, il traffico è molto collegato alla crescita dell'economia, quindi è un altro segnale che qualcosa sta migliorando. Un altro esempio aneddotico, così un po' folcloristico, la Campari riporta un incremento diciamo della vendita di bevande sociali, chiamiamolo. Sì. Si prendono più aperitivi, questo è un altro segnale, e anche qui lo sottolineo perché sappiamo quanto la crisi italiana sia stata caratterizzata da un calo dei consumi. Mm-hmm. Quindi non bisogna farsi prendere da facili euforie, ma dalle trimestrali emerge un quadro di stabilizzazione / incremento, miglioramento. Ecco, vorremmo che tutto questo si traducesse in posti di lavoro, ma ancora questo segnale, che credo sia il più importante, non lo vediamo. Poi magari le faccio fare un commento. Però, allora, le trimestrali, quindi lette con la lungimiranza e anche con la raffinatezza del dottor Vicinanza, ci sembrano, ci invitano non ad un pessimismo, ad un cauto ottimismo, possiamo dire, dottor Vicinanza. Sì, insomma, sì. Non va poi così male. Devo dire che però il pessimismo arriva invece leggendo un po' i fatti di cronaca, no? Nelle scorse settimane il tema al centro della cronaca è stato l'Expo, e poi ieri nuove indagini su banche, assicurazioni, Unipol Sai, UBI, Banca Carige, sì, esatto, e le abbiamo sentite nominare, no? Tante volte i nostri GR, me ne ha parlato anche Debora. Allora, da piccola risparmiatrice, la domanda sorge spontanea: perché io dovrei investire in un paese come l'Italia quando di fronte a un'occasione come l'Expo, appena tiriamo fuori il spostiamo il coperchio, viene fuori e mi fermo qua? Dunque, una prima risposta potrebbe essere più superficiale ed è, tutto sommato, siamo in buona compagnia, nel senso che scandali finanziari hanno colpito negli ultimi anni non solo l'Italia. Diciamo che noi tendiamo a non farci mancare mai niente da questo punto di vista. La risposta più, diciamo, più seria la porrei in questi termini. Il mercato italiano è un mercato che ha caratterizzato tanti aspetti negativi. Lei ne ha citato uno, le posso citare la scarsa crescita dell'economia, le difficoltà, l'instabilità politica, l'incapacità di fare riforme, il peso della burocrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, il mercato italiano, se lo guardiamo in relativo, ci dice che in qualche modo queste cose sono fattorizzate. Mi spiego con un dato banale. Sì. Se guardiamo il mercato tedesco, e prendiamo l'indice tedesco dove era prima della crisi di Lehman, ora il mercato tedesco è 20% più alto di quel livello. Il mercato europeo nel suo complesso, rispetto a dove stava prima della crisi di Lehman, ha recuperato quasi tutto. Quasi tutti sui massimi gli indici europei, con l'unica eccezione italiana. Quindi. L'Italia non vale neanche la metà di quello che valeva. Quindi la mia risposta è sì, è vero, l'Italia ha un mercato caratterizzato da un sacco di problemi, ma i prezzi lo riflettono. Quindi la vera domanda è: da qui in avanti miglioriamo o no? Se la risposta è sì, è un mercato che ha un sacco di spazio per recuperare quello che gli altri già hanno recuperato. E quello che le stavo dicendo prima, sul fronte economico abbiamo qualche timido segnale, senza farsi prendere all'entusiasmo, di miglioramento del ciclo. Sul fronte, diciamo, più generale, è cruciale che i prossimi esecutivi portino avanti un piano di diciamo riforma. Che se proprio si volesse investire a Piazza Affari, direi di guardare alle small cap, alle piccole società, alle piccole capitalizzazioni, tante aziende che magari operano nel settore manifatturiero, che hanno tanti investimenti a livello internazionale, che sicuramente sono disinteressate alla corruzione, al credito bancario da parte di banche che non meriterebbero neanche di stare sul mercato e altro. Mi viene da ridere leggendo un messaggio di Andrea da Bologna, perché il dottor Vicinanza ci ha detto del Campari che aumenta un po', no? E Andrea ci scrive: Campari, la gente beve di più perché è disperata e non riesce a Campari. Sai che non l'avevo letto tutto fino in fondo. Carino. Donato da Reggio Emilia all'800240024, eccoci a lei. Donato. Salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. No, io volevo fare una considerazione e una domanda. Io credo che con l'aumento che c'è stato dei vari titoli da inizio anno nella borsa italiana e con la modifica quindi dal 1° luglio di quest'anno della ritenuta che passa dal 20 al 26%, io credo che il motivo principale per cui c'è stato in queste ultime settimane un calo vistoso è proprio perché chi ha guadagnato in questi mesi ha voluto capitalizzare e quindi pagare la tassazione al 20% invece che al 26%. Quindi la motivazione secondo me è stato probabilmente il voto europeo, ma in realtà il vero motivo economico è quello. Faccio un esempio: per chi ha guadagnato 10.000 euro, una cosa è pagare 2.600 euro di tasse, un'altra cosa 2.000. Donato, la sua lettura è assolutamente interessante. Dico anche che però per chi è uscito dal mercato e comunque ci rientra l'investitore professionale, non è che può uscire adesso e non rientrare più, perché dal 1° luglio appunto c'è il nuovo regime fiscale. Non lo so, Vicinanza, che ne pensa? No, ma secondo me è entrato, è uscito. Entrato contemporaneamente. Poi approfitto altri due secondi per dire un'altra domanda. Io ho un fondo pensione e uno dei 44 punti che ha inviato Renzi ai dipendenti pubblici parla che l'ufficio che controlla i fondi pensione praticamente dovrebbe passare chiudere e passare alla Banca d'Italia. La Covip, c'è è da vero? Preoccuparsi? Ma guardi, l'ISVAP si è fusa con l'IVAS, la società l'organizzazione di vigilanza sui fondi pensione si è integrata con quella sul mercato assicurativo, non è successo niente. Speriamo che spendano meno, Donato, e che controllino di più. Vicinanza. Dunque, sulla prima considerazione, io parlo da investitore professionale. Nel nostro caso le eventuali plusvalenze non realizzate, riportate nella fase successiva all'entrata in vigore della nuova tassazione, non verranno tassate con la nuova aliquota. Quindi per noi vendere e ricomprare non avrebbe avuto senso. A parte che non è rilevante, perché noi siamo lordisti, semmai per il sottoscrittore di un fondo non avrebbe avuto senso. Qui dovremmo spiegare tutta la differenza lordisti e nettisti, lasciamo stare. Comunque, insomma, lui ci ha dato la sua lettura. Quanto al tema dei fondi pensione, direi proprio che non c'è da preoccuparsi, la vigilanza rimarrà e si tratta di un accorpamento nelle organizzazioni. Teniamo conto che la Covip da tempo non ha più un presidente, ha solo un commissario, che peraltro è Rino Tarelli, che salutiamo perché è un grande fan di Cuore Denari, per cui assolutamente sul tema fondi pensione direi che non dobbiamo preoccuparci. Io ringrazio Marco Vicinanza per essere stato con noi. Grazie davvero, torni presto a trovarci. Esatto, lo richiameremo presto, magari in concomitanza della decisione della Banca Centrale Europea probabilmente di intervenire sulla politica monetaria fra un paio di settimane, così tema che questa mattina abbiamo lasciato, lo approfondiremo quando sarà il momento. Cuore e denari. Già sentire questa musica ci mi sembra di essere in una di quelle sale benessere, non che io mi vada a fare massaggi ogni due per tre, però mi ha richiamato un po' alla mente quell'ambiente là, quell'atmosfera lì. Sui massaggi invece io ti porto a parlare di aghi. Ha oltre 5.000 anni e l'agopuntura continua a far parlare di sé, ne abbiamo parlato anche noi tante volte a Essere Benessere, ma oggi lo facciamo diventare protagonista della nostra puntata. La conoscete per esperienza diretta, volete saperne di più, chiamatelo, state già facendo l'800 24 00 24. Secondo i dati riportati online dall'Associazione Italiana Agopuntura, sarebbero circa 6 milioni gli italiani che ogni anno ricorrono agli aghi e sarebbero circa 12.000 i medici agopuntori che la praticano, e l'azione degli aghi naturalmente è oggetto di studio anche da parte della ricerca. Partiamo da qui e iniziamo a dare il benvenuto alla dottoressa Roberta Elisabetta Monzani, responsabile dell'unità operativa di Day Hospital Chirurgia dell'Istituto Humanitas di Rozzano. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tra l'altro anticipavo, intanto che con Deborah anticipavamo il suo intervento, che all'Humanitas di Rozzano l'agopuntura è già utilizzata da tempo, giusto? Sì, abbiamo un ambulatorio aperto ormai da quasi 10 anni e poi abbiamo così scelto di inserire l'agopuntura in alcune quotidianità, in alcune attività che possono riguardare l'attività di sala operatoria piuttosto che di supporto in alcune patologie e terapie che devono essere eseguite dai nostri pazienti. Allora, intanto diamo subito delle coordinate agli ascoltatori che ci stanno chiedendo informazioni. Alessandro, che ci scrive da Livorno, una regione che sulle medicine convenzionali complementari è all'avanguardia, ci scrive se c'è un centro di agopuntura riconosciuto in Toscana ed eventualmente come può fare per avere una mappa di tutti i centri esistenti in Italia. Iniziamo a dire che l'agopuntore deve essere un medico, vero dottoressa? In Italia assolutamente sì, non è uguale questa regolamentazione in tutta l'Europa, però in Italia sì, ci deve essere un medico, assolutamente. Al limite può essere uno studente del corso di laurea in medicina, iscritto però già al 5° o 6° anno e quindi in dirittura d'arrivo nei confronti della laurea. Per quanto riguarda l'indicazione di centri, possiamo fare riferimento a quella che in Italia è la scuola per eccellenza di agopuntura, dottoressa Monzani? Direi di sì, semplicemente anche a garanzia dei percorsi di formazione di questi medici agopuntori che sono iscritti presso questa società italiana di agopuntura. C'è la possibilità di poter consultare il sito internet, e il sito internet è aggiornato con tutti i nominativi di tutti i medici agopuntori su tutto il territorio nazionale che sono iscritti regolarmente a questa società. Vuol dire che sono tutti medici agopuntori che hanno seguito la stessa impostazione, lo stesso corso di formazione e quindi a garanzia di una anche filosofia nella preparazione di questi medici e a garanzia di poterla così erogare in maniera seria e professionale. Abbiamo preso lo spunto per tornare a parlare di agopuntura dalla regione Emilia-Romagna, ma come abbiamo detto, dottoressa, ci sono tanti ospedali che hanno già negli anni aperto le porte all'agopuntura e non solo all'agopuntura, e poi con l'autonomia regionale in alcuni casi si paga il ticket, in altri invece no, ma questo ha naturalmente suscitato dei consensi ma anche molte polemiche. Sì. È inevitabile. La domanda è che soprattutto quella che così motiva le critiche degli oppositori è che se ci sono abbastanza evidenze scientifiche che mostrano l'efficacia degli aghi. Dottoressa Monzani. Evidenze scientifiche ce ne sono e ormai ce ne sono a sufficienza e ormai anche da anni. Quindi diciamo che la necessità di dover continuare a dimostrare che l'agopuntura funziona e funziona come atto diciamo terapeutico è una necessità così un po' mi viene da dire culturale in particolar modo magari in una realtà come l'Occidente, perché in Oriente è un dato di fatto che l'agopuntura funzioni, però gli studi ormai sono ampi e l'agopuntura, lo studio più importante che è stato fatto un po' di anni fa presso l'ospedale San Raffaele è stata proprio la dimostrazione della modificazione dell'attività in alcune aree cerebrali quando un paziente veniva sottoposto a sedute di agopuntura. Questo significa quindi che vengono messi in moto dei meccanismi e che cambiano, adesso la semplifichiamo dicendo così, banalmente la produzione di alcune sostanze a livello del sistema nervoso centrale che quindi vanno a modificare la risposta nel momento in cui noi mettiamo gli aghi ai nostri pazienti. Allora, ci sono tante telefonate. Esatto, intanto molti curiosi di capire qual è il meccanismo d'azione degli aghi, adesso lo spiegheremo. La prima cosa naturalmente da fare è sentire anche le testimonianze di chi con successo si è rivolto a questo tipo di terapia per risolvere dei problemi anche piuttosto seri. Elisabetta da Cagliari, buongiorno. Buongiorno, sì, infatti volevo testimoniare la mia esperienza con mio figlio di 12 anni. L'anno scorso per 2 mesi soffriva di una forma di cefalea di tipo tensivo, con la medicina convenzionale non abbiamo risolto, quindi mi sono rivolta a un medico che fa l'agopuntura e abbiamo ottenuto dei risultati ottimi. È stata una cosa graduale, però abbiamo risolto Volevo precisare che contemporaneamente lui era in cura anche presso il centro cefalea di Cagliari e loro erano a conoscenza che noi stavamo effettuando l'agopuntura, quindi niente. E quindi adesso il suo ragazzo sta bene, il problema è stato risolto. Per il momento sì, bene. Sì, è passato un anno e mezzo e niente, volevo comunque approfittare di questo per dire che la regione Sardegna comunque non è molto sensibile a questo tipo di terapia e anche da parte dei medici c'è un po' di scetticismo. Sì, sì. Allora, l'esperienza di Elisabetta da Cagliari, dottoressa Monzani, racconta l'effetto antalgico degli aghi per il trattamento della cefalea. Sul fatto che gli aghi riescano a ridurre o a in qualche modo mascherare il dolore, ci sono delle prove scientifiche, di questo parleremo più tardi perché è il momento di dare la linea al nostro GR e dalla testa ai piedi andremo a cercare dove gli aghi sono efficaci. Cuore e denari. Siamo tornati a agopuntura, questo è il tema della seconda parte di Cuore e Denari, l'avete provata, con quali risultati? Volete sapere se gli aghi potrebbero essere una soluzione al vostro problema, curare ad esempio l'insonnia, la cefalea, i dolori articolari? Chiamateci all'800 24 00 24, in linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Roberta Monzani di Humanitas e abbiamo anche Stefano della provincia di Torino. Buongiorno Stefano e benvenuto. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione, siete molto simpaticissime. Grazie. Tempo fa ho visto su YouTube un filmato in cui, verosimilmente più o meno gli anni 60, realizzato in Cina, in cui si fa vedere un parto cesareo, avete sentito bene, cesareo, non naturale. Non naturale, con l'ausilio dell'agopuntura, quindi senza l'anestesia normale, ma tramite l'anestesia dell'agopuntura. Quindi aghi al posto dell'anestesia. Esatto, e si vede proprio che hanno aperto il ventre di questa donna che era sempre cosciente e sorridente e hanno tirato fuori il bambino. È stato incredibile. Io quando l'ho visto sono rimasto stupefatto. Grazie Stefano. Quindi la domanda di Stefano che giriamo alla dottoressa Monzani è... Dottoressa Monzani, abbiamo sottolineato il potere antalgico degli aghi, ma gli aghi possono essere utilizzati, o meglio l'agopuntura, anche come anestesia. Sì, allora il concetto di anestesia è un pochino diverso da quello di analgesia, questo deve essere chiarito per gli ascoltatori, ma mi fa molto piacere quello che ha detto l'ultimo ascoltatore, perché infatti l'agopuntura o l'elettroagopuntura può essere utilizzata tranquillamente per eseguire degli interventi chirurgici. Elettroagopuntura, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta? Sono certamente degli aghetti? Sono semplicemente gli aghi che vengono costantemente elettrostimolati, questo per mantenere costante l'effetto della stimolazione degli aghi e poterlo mantenere nel tempo necessario della durata dell'intervento chirurgico o della procedura a cui è sottoposto il nostro paziente. Andando a lavorare su quelle che sono le vie di trasmissione del sintomo del dolore, l'agopuntura va a intercettare questi messaggi che non arrivano praticamente a livello della corteccia cerebrale, quindi vengono bloccati a livello periferico e quindi impediscono di poter sentire la sensazione o meglio il sintomo dolore. E questa è una cosa fattibile, ovviamente non in assoluto su tutti gli approcci chirurgici, perché come sempre bisogna anche condividere poi non solo il tipo di paziente ma anche con il chirurgo, l'equipe chirurgica diciamo deve condividere questo approccio strategico. E ci devono essere anche delle motivazioni da parte del paziente a voler affrontare un intervento del genere. Però la fattibilità c'è, in Cina sicuramente è molto più routinario, ripeto nel mondo occidentale magari ancora per alcune situazioni così di approccio approccio culturale, di formazione, di scuole, di riuscire a, così, a diffondere sempre di più questo tipo di approccio terapeutico, siamo un pochino più a rilento. E ci facciamo aiutare anche da Carlo Maria Giovanardi, che è presidente della Federazione Italiana della Società di Agopuntura, che abbiamo scoperto che con piacere Deborah ascolta. È un fan di Cuore Denari e noi ne siamo molto felici. Dottor Giovanardi, buongiorno. Buongiorno. Intanto saluto la collega Montani. Buongiorno. Volevo soltanto dare questo contributo. Io ho partecipato, essendo nell'organismo che sostiene nella regione Emilia-Romagna l'introduzione dell'agopuntura nel sistema sanitario, e cosa notizia di pochi giorni fa, e che uno dei motivi per cui abbiamo introdotto l'agopuntura in queste patologie è che, oltre alla sua efficacia, c'è anche un risparmio in termini economici. Negli ultimi anni sono sempre di più i lavori pubblicati, specialmente in Germania, dove si dimostra che l'agopuntura per le patologie croniche, quali ad esempio la lombalgia e la cefalea, oltre ad avere un beneficio, abbiamo un risparmio in termini economici. Quindi più aghi, meno pillole, e il portafoglio ci guadagna. Esatto, quantificando. Quando si fa un discorso economico si fa un riferimento di meno giornate lavorative perse, meno effetti collaterali, meno ricovero dovuto a farmaci, quindi è un discorso molto globale, no? Però ha dimostrato che alla lunga c'è efficacia. E teniamo presente che la lombalgia e le cefalee sono le prime due patologie a carattere sociale, quindi dove maggiormente spendiamo soldi. Seconda cosa, in Italia purtroppo non abbiamo ancora un censimento ufficiale delle strutture pubbliche dove viene praticata l'agopuntura. L'ultimo censimento lo facciamo noi come FISA nel 2000, però da allora onestamente le cose sono molto cambiate. E concludo in più per quanto riguarda la formazione, che esattamente un anno fa c'è stato un accordo Stato-Regioni per cui sono state stabilite le regole di formazione per i medici che devono fare agopuntura, quindi un corso triennale. I corsi sono aperti soltanto ai laureati in medicina e chirurgia, proprio per poter dare una sicurezza al cittadino. E questa è una posizione che pone l'Italia un po' all'avanguardia in Europa, perché in Europa ci sono zone e paesi dove l'agopuntura non è un atto medico, mentre invece una volta tanto l'Italia forse fa un po' la guida verso gli altri paesi. Grazie a lei, dottor Giovanardi. Hai visto che ha subito beccato la parte denari. Infatti. Ormai anche i nostri ascoltatori, i nostri esperti sanno che devono fare il collegamento, sanno che assolutamente devono stabilire la relazione. Volevo però ricordare, Deborah, ne abbiamo parlato proprio ieri, perché tua sorella ormai ha partorito, ma noi abbiamo seguito tutta la pancia di Morena quasi in diretta. Ha fatto anche un parto molto veloce, diciamo doloroso il giusto, ecco. Ed è quello, volevamo chiudere un po', abbiamo aperto un po' una parentesi di agopuntura rosa, la chiudiamo però. Il nostro ascoltatore ci parlava di parto cesareo con utilizzando l'agopuntura. Dottoressa Monzani, andiamo prima del travaglio. Possiamo partire prima con l'agopuntura, prima di arrivare al cesareo, magari speriamo anche di riuscire ad evitarlo il cesareo. Perché tra l'altro vorrei proprio ricordare che presso il suo ospedale voi trattate un punto che si stimola per la nausea in gravidanza, e questo è un aiuto per le mamme che ci stanno ascoltando, ma lo stesso punto lo trattate anche per trattare la nausea magari che segue gli interventi chirurgici. È un punto molto semplice da identificare, quindi magari semplice anche da insegnare ai non agopuntori, quindi per caso anche ai pazienti, a massaggiarselo al proprio domicilio, oppure banalmente insegnare a trattarlo in alcune circostanze come le cinetosi. Ci sono tanti pazienti che soffrono magari di mal d'auto, mal di nave, e quindi lo stesso punto può essere utilizzato a scopo preventivo per evitare di assumere farmaci e ovviamente non incorrere nella nausea e il vomito. Nel nostro caso l'abbiamo applicato con degli ottimi risultati per prevenire la nausea e il vomito in seguito a un intervento chirurgico, oppure nei pazienti che devono fare una chemioterapia che si sa facilmente come effetto collaterale può dare nausea e vomito. È un punto, ripeto, che si trova in farmacia un braccialetto, che è quello che di solito utilizzano le donne gravide che soffrono di nausea e vomito, e il punto è esattamente lo stesso, quindi si può utilizzare o il braccialetto che si trova in farmacia, oppure noi in ospedale applichiamo un piccolissimo ago come una puntina da disegno in miniatura su questo punto per tutta la durata del ricovero, e in alcuni casi i pazienti ci chiedono di lasciarglielo se lo rimuovono semplicemente al proprio domicilio senza alcun rischio e alcun pericolo. Ma se noi facciamo delle digitopressioni su quel punto, che lei gentilmente ci svelerà, che così io e Deborah... Perché stiamo ormai diventando brave, ne abbiamo individuato uno con il dottor Speciani sull'orecchio per il rilassamento. Esatto, mm-hmm. Esatto, ecco. Il punto scendi auricolo, e questo è il punto PC6 che si trova indicativamente tra, se voi piegate la mano sul polso, sì, trovate i due capi tendini, in mezzo ai due capi tendini che partono dalla mano verso il gomito, diciamo, a una distanza di circa due dita, non in verticale ma in orizzontale, trovate una sorta di cedimento facendo scorrere il dito, e quello è il punto di agopuntura che può essere massaggiato. Banalmente un polso contro l'altro, spingendo su questo punto, voi vi automassaggiate contemporaneamente tutti e due i punti bilateralmente. Abbiamo... È scomparsa la nausea? Avevi la nausea? Abbiamo il problema inverso, noi abbiamo sempre fame. Esatto, pensiamo di aver trovato il punto, però ci stiamo cimentando in questa ricerca. Dottoressa Monzani, un punto per ridurre un po' la fame? Allora, dato che di solito questo è un argomento che riguarda diversi aspetti e quindi l'approccio deve essere un approccio olistico, è difficile trovare un unico punto che risponda a questa esigenza. Si fermi lì, dottoressa Monzani, perché spieghiamo bene questo concetto a Giuseppe dalla provincia di Vicenza. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio. Inutile fare i complimenti alla trasmissione. No, faccia Giuseppe, faccia pure. Guardi, vada. Preciso che non sono il Giuseppe di Vicenza di ieri che se va messo in viene messo in carcere se si mette in costume da bagno. Ah, perché si chiamava... Lui... Giuseppe è un collega, pensava così io. Allora, sono una persona in sovrappeso e sto tentando varie diete. Ho sentito dire che l'agopuntura, non so in che parte, mi sembra di ricordare dietro l'orecchio, può aiutare a diminuire l'effetto fame, comunque la richiesta di cibo, oppure accentuare l'effetto sazietà. Ecco, volevo capire se questo potrebbe aiutare. O magari risvegliare il metabolismo, Giuseppe. Insomma, dottoressa Monzani. L'approccio olistico, giustamente. Ci giriamo intorno, ma quello vogliamo sapere. Allora, diciamo che sì, ci sono allora dei punti di prima scelta, e quello dietro l'orecchio, credo di aver compreso, è quello che può riferirsi a un controllo a livello del sistema nervoso centrale, quindi il nostro cervello ci manda degli input, fame, voglio mangiare continuamente qualunque cosa mi capita sotto mano, e pungere o trattare meglio questo punto aiuta a controllare un po' questi messaggi, questa tempesta di messaggi che continua ad arrivare al nostro cervello, e quindi ridurre questa necessità di mettere in bocca qualunque cosa in qualunque momento. Giustissimo parlare di controllo di metabolismo, e anzi in un approccio olistico direi che è molto più razionale anche come tipo di approccio, perché poi ognuno di noi va individuato a seconda del tipo di sovrappeso, a seconda del tipo di obesità, andando più avanti nella gravità del problema, e quali sono le nostre abitudini alimentari, perché anche banalmente correggere la dieta evitando alcuni cibi che non per tutti fanno male, ma per alcuni di noi possono essere assolutamente controindicati, direi che fa parte di una educazione alimentare, quindi è una collaborazione tra medico e paziente, quindi è un po' una sorta di lavoro di sinergia che si fa e si porta avanti dando ovviamente un razionale, un percorso che deve fare il paziente insieme al medico che lo segue. 800 24 00 24, avete tempo ancora di saltare la barriera rosa per parlare con noi di aghi e agopuntura, dottoressa Monzani. I messaggi che arrivano sono dei nostri ascoltatori che ci raccontano i benefici che hanno avuto dagli aghi. Bene, noi siamo contenti. Non per tutto e non per tutti gli aghi funzionano, e allora volevo chiedere chiedere a lei. Mi avvicino all'agopuntura. Quante sedute sono necessarie in generale, senza, perché capisco che i trattamenti sono differenti da caso a caso, sono personalizzati a seconda della, del problema da affrontare, ma mediamente quante sedute ho bisogno di fare per rendermi conto se gli aghi fanno al caso mio, al mio problema, oppure no? Ecco. Allora, per capire se uno è più o meno sensibile e l'agopuntura può essergli utile, direi che sono sufficienti 3, 4, massimo 5 sedute, ma direi che di solito nel giro delle prime 3 sedute un agopuntore riesce a capire se è un soggetto facile da trattare o più complesso. Però farei una distinzione tra quelle che possono essere delle patologie acute e delle patologie croniche. Nell'ambito delle patologie acute, a volte l'agopuntura anche in un'unica seduta risolve il problema e quindi tutto finisce lì. Nell'ambito delle patologie croniche può essere un pochino più difficile riuscire ovviamente ad ottenere dei risultati in tempi brevi, ma allora a questo punto è maggiormente importante riuscire a capire se il paziente che stiamo trattando è un paziente responsivo all'agopuntura. Ecco. Nella mia esperienza comunque si ha sempre una risposta, perché ripeto, nell'ambito dell'approccio olistico magari il paziente viene giustamente perché ha un problema ben specifico, su quel problema specifico non ha un'immediata risoluzione, ma magari riesce a dormire meglio e non si era accorto, ecco, che aveva un sonno disturbato. Banalmente, il miglioramento del sonno può indirettamente andare a migliorare anche la sintomatologia e il disturbo per cui lui si è presentato alla nostra osservazione. Devo dire che tutti i professionisti che passano da Cuore Denari, Nicoletta, questa indicazione la danno, che siano nutrizionisti, esperti in particolari specializzazioni, ma il tema del sonno è veramente ricorrente. Non diversificano, no, ce l'hanno sempre con il sonno. Comunque, sonno, no, volevo vita, fare salute. Allora, non so se abbiamo degli ascoltatori, magari molto brevemente, dottoressa Monzani, la mia curiosità era di sapere quanto conta la predisposizione mentale verso questo tipo di terapia. Venire per, dopo aver detto vengo perché è la mia ultima spiaggia, oppure venire perché ci si crede, secondo lei quanto conta in relazione all'efficacia? Direi che può avere ovviamente una percentuale di influenza, ma minima. Non è sicuramente questo che cambia in maniera sostanziale l'esito della terapia con agopuntura. Perfetto. Le graminacee, velocemente, chiede Patrizia da Reggio Emilia, che non riusciamo a far intervenire. Sì, allergie? Sì, nel senso che parliamo appunto di allergie, non tanto di graminacee direttamente, sì. Ma esistono dei punti di agopuntura che vanno a aumentare il discorso delle difese immunitarie e quindi a ridurre quella che è la soglia di stimolazione degli allergeni, in questo caso delle graminacee. Grazie. Dottoressa Monzani deve tornare perché i nostri ascoltatori si sono scatenati. Grazie, grazie. Grazie a voi, buona giornata. E noi a lunedì, cara mia. Buon weekend.